Non so come fare per poter spiegare come sono fatto. A nessuno l'ho mai detto, ci posso provare. Per farti capire faccio un paragone, come fossi un calciatore. Sono un amante da Serie B e la mia vita va così così, come chi gioca in Serie A però non vede che alla fine retrocede. Infatti sono solo qui e anche se mi impegno gioco sempre male, non arrivo mai alla nazionale. Mi saprò adattare a questa situazione, ero là per attaccare, ora sono difensore, neanche un piede buono, sono un sottotono. Avanzo a centrocampo, sono stanco e non ritorno, sono senza fiato, corro tanto e a vuoto, ed il mister vuole troppo, chiedo il cambio, sono esausto, mi vede saltare, sbattere e cadere, scivolare sul pallone, fare un grande figurone. Sono un amante da Serie B e la mia vita va così così, come chi gioca in Serie A però non vede che alla fine retrocede. Infatti sono solo qui e anche se mi impegno gioco sempre male, non arrivo mai alla nazionale. A dedicarti un grande gol, spero che te lo faccio alla Roberto Baggio. E se un rigore sbaglierò e se dolore ti darò, spero potrai capire che ti saprò rifare. Amante da Serie B, la mia vita va così così, come chi gioca in Serie A però non vede che alla fine retrocede. Infatti sono solo qui e anche se mi impegno gioco sempre male, non arrivo mai, non arrivo mai da Serie B. La mia vita va così così, come chi gioca in Serie A però non vede che alla fine retrocede. Infatti sono solo qui,